che si appoggia. Non c'è problema, ti ascolto sempre nove, quindi non problema. Avanti l'attenzione 10. Buonasera, doppio lupo. Domenico. Domenico? Ok, come sei messo, tu lo senti? No, negativo. Sparito, non sento più neanche io. Ma sentiamo, mi preoccupa. Attenzione, Domenico. Porca miseria, mi stavi preoccupando, sei sparito di colpo. Allora vai a rispondi. Guarda, è entrato doppio rumo e ti ha salutato, riprendi. Beh, già sì, oramai sindaco di quella strada, ma stai attento. Vai piano, leggero. Tanto fra un po', guarda, non ti sento più. Sei già sulla piana lì. Già proprio sulla piana di Cosoli, come si chiama? Costiglioschi, tu. Quindi vai piano, quella strada, mamma mia, non l'ho mai potuta vedere a Cipicchia. Ci l'ho fatto tanti anni quella zona, ma da Tula, tanto a venire qua sembrava d'inverno una cosa micidiale. Micidiale, una nebbia che non si vede, un accidenti. Quindi domenica. Vai adagio, stai attento alla strada, lascia il caro baracchino. Ti abbraccio forte forte, già ci sentiamo più spesso adesso. E stai attento alla strada. Ti rilancio a Falchetto, così ti saluta. Vai Falchetto. Via, cappa, vai, saluto il domenico, vai, tutto si coincide alla buona mattina. Lo sai che la sveglia te la faccio sempre, non c'è problema. Vai tranquillo, sereno, pacifico, fai un buon rientro, buon tutto, vai, ce la riascoltiamo domani. Ciao ciao, buon trabacco domenico, dai. Thank you. senti? Ecco qua. Almeno senti solo a me. Volevo un'informazione, siccome ho comprato una pappa di quelle per parabola, ho comprato per mettere quella a discone, ma il cavo, dove il cavo lo fai passare, il buco è dietro, dove va attaccato il palo, blu. No, glielo fai prima, Natali, cioè dove c'è la curva, dove c'è la pippa, diciamo, devi fare un buco largo in modo che ci scalpiele direttamente, non farlo troppo sottile. E un buco grosso li fai, glielo frisi magari, o lo porti in officina del vuoi tu io. Sì, allora abbiamo di uscita, siamo così sicuri di iscritte, ma ancora non l'avevo lattami, no, se non ce la faccio è un macello, perché è troppo pesante il cavo e il palo da scendere. Ma ah, vabbè, già lo faremo, va, poi in più si è messo il tempo brutto in mezzo alle scatole. Perché quella tappa che ho fatto io non è che mi piaccia molto, allora l'ho presa con una vite tutto. Guarda, ma la macchina che ho tempo libero, ma se viene settimana non te lo posso seguire. Se riesci a avvicinare la macchina te lo faccio domani io, Natalia. Io che me la metto nel cofano e facciamo quello che dobbiamo fare. Ehi, c'è anche Claudio, non so se sei già andato a mangiare, allora ti fa. Cosa che arriva a bomba, guarda, Claudio faccio a tutti. Comunque Natali, per tornare a discorsi, un canale di differenza non lo sbatte, lui 2 sul 10, risposto sull'11 non lo sento più. Sì, va bene, là, non c'è problema. Ma perché sta uscendo lo strano del radio, Natali? Con quella sei scende tu? Il presidente, ciao. Ma ti sento ombre lontano, cioè come il radio. Lontano, boh, strano, guarda un po', ti cerco dentro, no, già è, non è che ho toccato il magin, magari, allora, guarda, ma così dovrebbe essere il magin a te, no, non stai uscendo, sei troppo basso, ma, è così, parlare, guarda, 1, 2, 3, però, guarda, ma là sei tu, cappa. E cosa hai toccato? E una chien deve essere, siccome questo non è a regolazione, c'è un bottone, tocchi quello e forse con una chien print, va. Cosa sulle? No, le MP4, il president questo. Ho attaccato una più lunga così, e sto usando l'accordatore perché ho messi di stazionare, bisogna avere la regola di questa antenna, capito? Solo che da solo non ce la fai perché è un bel pesante, c'è l'antenna, c'è la multibanda sopra, è un casotto. Scusa un attimino, la multibanda come la stai fissando in quella pipa che non me lo ricordo come l'avevo messo io? Ci sono i bulloni, no, per spingerla al palo. Io, se non sbaglio, mi avevo preso una di quelle frange di Grand Plain a tubo, con la vitatura, così l'hai fatta tu. No, non è la vitatura, ci sono le viti, ci sono per poterla spingere al palo. Ah no, mi sto confondendo con la Grand Plain, scusa. Sì, c'ha la brugola, l'hai messi dentro e c'ha le brugole, perfetta. Rimane perfettamente, ma è arrivata a misura quel tubo, no? Sì, infatti. No, io gli avevo fatto una tappa, ma non mi piace quella tappa che gli ho fatto io, allora mi sembra di luce, e allora io gli metto quella della parabola che è meglio. Se non ho un sacco di tempo, solo che non sono riuscito ancora a regolarla e a scendere nel palo, se non mi avrei regolato una e l'altra e poi ce l'avrei tirata su torna. Perché gli ho messo anche i tiranti, se no cade troppo alto il palo e ho paura che faccia danno senza tiranti. Adesso provvisoriamente per uscire con quella multibanda te la metti finché riesci ad arrivare, tanto ti metti la frangia dietro, la cravatta, non c'è la cravatta dietro. No, ho capito, no. Ma scusa un attimo, tu hai preso quelle a pippa, a U diciamo, di tubo? Sì, quello per parabola. E c'ha una piastra da attaccare a parete, così è. Sì, due pezzi di ferro da attaccare al palo. Anzi. In quella più piazza, diciamo, quella dove dovete attaccare a parete, di lì ce le ha le cravatte. Sì, i due pezzi di ferro ci sono. Certo, la faccio vedere domani, com'è. Ebbene, le cravatte non ci stanno al palo, non l'ho compreso. Sì, ma il problema è il cavo, che la faccio passare il 213, perché c'è un buco solo fa un buco nuovo, come ho fatto io, nell'angolo, e poi la fa entrare nella curva. Fa un buco e fa uscire il filo. Te lo fai abbastanza largo il buco. E in modo che il filo entrerà. Esattamente a misura di PL, come ho fatto io, se no ogni volta ne devi tagliare il cavo, non va bene. Infatti, se no abbiamo da casare da sopra, confondendosi. Poi rimetto una fascetta di lì dove c'è il buco, in modo che non sfrighi, perché sennò si consuma la cosa, l'isolamento del cavo. Sì, infatti, già sono avvezzo a fare queste cose. E io dico, Salvatore, non si è sentito, dice che entrava in radio stasera, che deve dare una risposta. Sì, non l'ho sentito io, cioè, appena adesso. Ma già l'hai visto l'altra radio, sei passato davanti all'officina, ti ho salutato, me l'hai visto? Sì, ti ho salutato anch'io, solo che in fretta non mi sono potuto fermare. No, infatti, ho detto, oh, non mi ha visto. Via, va, se va a stare io davanti, lo taglio video. Sarà giù mio, ma... Già sta giù, già ti leggo quei piccitti. Pure se non sei piccitti, già ti leggo, perché non sono mio, perché sono astigmatico io. Sì, ok, vediamo un po', facciamo una chiamata generale sul canale 10, se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti con la buonasera che vuole entrare. Era un po' di giorni che non entravo in radio, stavo facendo sempre impegnato, sempre per le cose, la Giudice, e ci avevi detto, oggi, ho acceso un attimino, ho sentito Claudio che stava cercando a me, poi sono andato subito a mangiare, adesso è andato a mangiare anche lui, c'era Falchetto, e buh, 9.50 mi arriva, una bomba, eh. Si è attaccato, gli all'obbligo. La mia. Io conto che arrivo lì. Tieni presente che l'antenna sta lavorando con la conduttore, in più c'è una prolunga che non finisce più qua di 2.58 perché ce l'ho vicino al letto questo qui. 9.25 sì. Figurati, se uso l'altro chissà quanto ti arrivo. Già la mettiamo a posto l'antenna, là. Una volta che è a posto già uso l'altro. Poi puoi fare le prove, ti metti nel commutatore come faccio io, ti attacchi la multibanda anche sul baracchino, per dire, vuoi attaccare un rugoso, la multibanda e attacchi quello, vuol dire quando c'è un bel di QRM e cose del genere, ti abbassa un bel QRM, ti abbassa tutti i segnali e quando c'è propagazione o cose del genere, e non vuoi sentire il rompimento di scatole, attacchi la piccolina, anche io faccio così molte volte. Infatti, ma non c'è problema, la lascio fissa sul baracchino, quella lì. Bella però l'antenna, è spettacolare, proprio quando l'ho presa sono stato veramente contento e poi funziona su tutto, io l'ho provata anche su altre cose, funziona benissimo, il ricezione è micidiale pure. Infatti gira l'attacco in ricezione con l'antenna, ma quello piccolino nero. Io ho tre apparati collegati a quell'antenna, in commutazione, giro, se vuole andare a caro guadacchino, attacco, perché io ho due, allora, uno, due, tre calate di cosa, di antenna, c'ho io. E tre commutatori diversi, commutatori ne ho due, poi sull'accordatore passo dall'antenna direttiva all'antenna alla mantova, qui ci sono tre uscite nel commutatore e poi c'è un'altra calata di antenna e ci sono altre tre uscite anche lì. Allora devo anche salire quel dipolo che avevo fatto per i 10, quello lì a quell'altezza deve essere una bomba quel dipolo, perché poi è un direzionale, capito? Adesso guarda, non ho neanche il tempo di provare quella che mi ha dato Franco, che mi ha portato tutto per piazzarla, però voglio fare come mi ha detto Marco, gli metto quei tranicetti leggeri, quando busco soldi ne compro uno, la metto in un'altra parte e la faccio un po' altina pure l'antenna, così se voglio piazzare qualunque cosa ce la piazzo. E infatti, cosa ti volevo dire? Per quei tranicetti bisognerebbe andare a chiedere ai tuoi vecchi e chiedere quei tranicetti per verande che ci sono lì e si possono aggiungere uno con l'altro quei tranicetti lì. Perché non è detto guardiamo, bisognerebbe andare a chiedere. Prego. Sì, registrato questo un attimo. Non so dove li ho visti poi in realtà lì. Ho visto una struttura in questi tralicetti leggeri, dalle sole, per fare cose leggere tipo verande come stai dicendo tu, ci sono di tutte le misure, da 4 metri, da 6 metri, te li puoi anche mettere, per dire, te ne prendi uno da da 3 metri e di cui prendi la misura più grande e gliela metti dentro, in modo che te lo puoi fare tipo telescopico. Di diverse larghezze insomma. Sì, li ho visti di diverse larghezze. Cioè facciamo entrare a falchetto. Avanti falchetto. Positivo, salutone a terra, questo quadrato, salutone a Raffarino, bene, dai, prendete il vostro QSL, dai, non c'è problema, già rimango in ascolto. Brecco. Avanti, Brecco. Lui, buonasera a tutti, Claudio. Ciao Antonio, ciao Natalino, ciao Roberto. Ben risentiti. Natali, io uno di quelli l'ho visto, non l'ho preso perché mi è sembrato per me un po' troppo debole, però ce li aveva di quelli così a innestare, li stava dando a buon prezzo, perché quando qui ha traslocato lì a Predania, non so neanche dove sia andato, grassi, però c'è questo però proprio con Marco un giorno. Ci è sembrato troppo debole per la struttura che ha quel travicetto lì, Natali. Sì, vabbè, ma io se piatto una direttiva per i 10 metri, no? Una direttiva grande, no? Non so quanto sia il carico, Natali, non voglio dire fesserie, però noi guardandolo così con Marco abbiamo riscontrato che era un po' deboluccio questo alluminio proprio debole, non tubolare, di quello proprio rigido, bello, avvolto tubolare con i montanti incrociati, che sembrava proprio una cosettina da giocattolo. E sai, messo ad una certa altezza può essere pericoloso, perché poi sai benissimo che non è tanto il travicetto che può costare una fesseria, ma quanto l'antenna che è montata su, che magari costa una barca di soldi, il rotore, tutta l'attrezzatura che c'è, e cadendo fai danno. Ok, va bene, questo era il quanto per te, Roberto. Ma com'era, la base triangolare o come la tu che l'hai visto quadrata? Non lo so, ma un po' particolare, Robert. Sembrava sì, questo quadrato proprio con queste traversine esagonali, però il tubolare, perché era fatto di tubolare, sembrava un alluminio molto debole. Mi fate anche Marco se ne è accorto, era, perché l'abbiamo toccato, era roba vuota, proprio roba di circonferenza, non equivalente alle esigenze del montaggio di una direttiva, soprattutto magari sai per una verticale, un qualcosa, una X500, una 510, insomma quelle che usiamo noi, che sono in fibra, va anche bene, perché leggerissima, stai già montando un'antenna per dire tre elementi, che già ci vuole tutto il master, poi il rotore che già ha il suo peso, la direttiva che la direttiva a tre elementi già c'è un abbastanza largo, quindi diventa già una cosa un po'. Abbiamo riscontrato non molto efficiente, ecco, per me, poi non so, magari per l'uso che ne possa fare Natalino può essere anche interessante. Natali, io ho provato la G5RV qua, allora, 3 anni fa. La testa la conosci, sai dov'era, eccetera, no? Siamo. Hai visto tutto di com'era prima, di com'è adesso. Ti posso garantire che nella bassa valle aveva una radiazione almeno del 50% di superiorità. Capito? Poi all'ultima riunione che abbiamo fatto mi ha spiegato qualcosa appunto Andrea, che soprattutto quelle antenne lì alla larga banda come è fatta la G5RV, in basso una radiazione superiore rispetto all'altezza che possa avere una verticale. Chiaramente vorrebbe piazzata a T come regola, ecco perché tu avevi le cose in basso, come regola vuole un T, capito la cosa del discorso, ci vuole molto spazio, sono 26 metri di spazio ci vuole per piazzata, perché il dipolo vuole non sempre in verticale, capito? È una T-forma. Perché tu se vai su internet e la cerchi, vedi che è piazzata come ti sto dicendo io. Sì, sì, sì, sì, infatti non te li confermo, perché il montaggio che avevo qua era la solita V invertita con la scaletta aperta. Mentre quella, proprio per questione di spazio, come stai dicendo tu, mentre giù, nella bassa valle, avevo la V aperta, però andavo a fare proprio esattamente una T, la scaletta. Ecco perché la reazione era superiore, ma guarda, era allucinante, veramente contentissimo. Qua però non la piazzo perché devo mettere la verticale, qua lavoro con le verticali e basta. Ok, lasciamo il microfono a Forchetto, perché stiamo parlando di cose normalissime senza nessun problema, ci parlo di antenne, no? Non è che stiamo chiedendo niente, sono cose che sai anche tu, non so se conosci di Puli, quindi questa G5DV praticamente è un dipolo autocostruito e il nome che nasce da questa G5DV è il nominativo 5 sta per bande e poi c'è la sigla di quello che l'ha costruita, praticamente di quello che l'ha inventata questa antenna filare, hai tu capito? Sì, sì, sì, non c'è problema, non c'è problema. No, riprendete pure, no, rimango da sotto, va anche bene ascoltare, claro, non c'è problema. Riprendete il vostro discorso. Non c'è problema, ok. Sono cose sempre meglio sentirli questi discorsi, almeno uno impara, capito? Sono discorsi interessanti qui. Cosa ti volevo dire qua? E tieni presente che la tua era quella piccola, io c'ho la grande, quella c'ha degli 80 metri, ecco perché ti sto dicendo 26 metri, perché ogni braccio è 13 metri. Esatto, esatto. Natalita, esatto, sì, tu avevi quella lunga, io invece quella lunga con gli 80 l'ho data a Vittorio. L'ho data a Vittorio perché appunto voleva provarla e vedere un po' come funzionava. Non so neanche se l'abbia montata o se sta continuando a lavorare anche lui con la verticale. Però ti posso dire che è un esperimento molto molto interessante quello di quell'antenna, perché secondo il posto che tu la piazzi o secondo le radiazioni che gli dai ha una ricezione, una trasmissione allucinante. In 80 vedi, io ad esempio non l'ho provata, tu so che hai fatto tantissimi collegamenti, l'hai sperimentata prima di me ed è, so che i risultati insomma tramite quella persona là sono stati sempre ottimi. Ok, mentre Roberto volevo chiedere una cosa, Rubè, ma quella che hai tu è praticamente una direttiva per gli 11 metri, non l'hai modificata, non è un'antenna di 10 modificata a 11, com'è? Ma quella che c'è, la cubica? Quella lì ho visto io, la direttiva che hai, quella è un'antenna per gli 11 metri, quindi quella che aveva fatto la... chi l'aveva fatta? Quell'antenna? No, la Sirtel, no, di che della M quell'antenna? Ma tu sei proprio quella che ci ho montato, sta dicendo? E quella che ho visto io, quella montata sotto l'autore? No, io pensavo che stessi parlando della cubica, c'è anche la cubica io che devo montare. Sì, per 11 metri, per la 27 proprio, è della Sigma. È bella robusta, perché se ti ricordi Natali facevano quella... c'è un'antenna simile a quella, non so se della Sigma lo stesso, o della... no, della Eco Antenne, Natali, della Eco Antenne, che addirittura... Era per la 27, aggiungendole una in radiale, poi fatta la misura giusta tra il boom e tutto il resto, quindi deve essere fatta misura, quindi ci sono degli spostamenti, degli accorgimenti da fare, delle lunghezze eccetera, ce l'aveva Andrea e lavorava, l'aveva modificata praticamente inserendole un elemento in più. L'aveva modificata Natali per i 6 metri, ma era una schioppettata. Io l'avevo provata a casa sua una volta, una mattina, una mica mattina, c'era proprio nei 6 metri, ma era una favola, ma a costo zero, un'antenna di 200 euro, proprio si vedeva, era un'antenna scadente, anche il tubolare, l'alluminio, insomma. Però lui l'aveva comprato da bricco, una verga di alluminio della stessa dimensione, quindi rifatta naturalmente tutte le misure eccetera, e l'aveva usata per i simmetri. Certo, perché basta fare da 2 metri l'uno, 2 metri e 6 centimetri mi sembra che siano i radiali. E più vai e più gli accorsi, più vai verso l'avanti, no? Il 10% vogliono. E logico che funziona, l'elemento in più gli aveva voluto aggiungere lui, se no non c'era bisogno. Se uno è 3 elementi, va anche bene 3 elementi. Io avevo costruito la testa, per esempio, per i segreti. Esatto, io lascio sempre un po' di spazio. Sì, esatto, perché effettivamente è così, andava bene anche 3 elementi, l'ho voluta farla a 4 elementi, accorciando il boom e allungando la radiazione centrale, quella appunto che serviva per stringere un po' la banda. Sì, è così. Ma sono vedi, sono cose. Volevo dire una cosa a Roberto, vabbè, Franchi, riprendi tu intanto, dai. Io sono appassionatissimo al discorso, complimenti, stavo facendo un discorso proprio che mi si addice veramente. E niente, rimango all'ascolto perché mi piace molto ascoltare questo discorso delle antenne, è bello, bello sentirsi e ascoltare, la verità si dica. Niente, rilascio il mic a Roberto, avanti Roberto. Anche cosa, maestrale ce l'ha, lui ce l'ha a 6 elementi però l'antenna, come la mia, però di un'altra marca, però è un po' più complicata perché c'ha dei collegamenti particolari, io l'attacco direttamente, c'ho l'HPL, c'ho il ponticello mobile per il ROS, per allinearla, per accordarla, lui invece c'ha un sistema diverso di accordo l'antenna, addirittura avere il cavo deve saldare direttamente sull'antenna, è un po' più complicata la sua. Questa l'ho presa perché qualità prezzo era quella che costava meno, mi ha fatto un grosso sconto Grassi e l'ho presa da lui. L'altro è più semplice, addirittura in quella di Mattarella ci vuole il ballo, se tu non gli fai il ballo non funziona quell'antenna, non la piaci così perché ci vuole il ballo. No, già gliel'hanno dato, non gliel'hanno mandato nella scatola, a cui se non gliel'hanno rispedito. Ah, ecco, chi si l'abbia chiusi senza ballo non anda. Anche quel lì quello l'ho fatto io senza ballo, non va, gli ho dovuto costruire un ballo io a quel lì, quello lì. Però arrivavo, ti posso dire quanto era matto qua me, in 10. E lui era l'intera, anche mi rampate, un pezzo di vivo, si vuoi che attivo la lì. Tu me ne hai dato un'altra, però non l'ho provata, mi pare, una volta solo forse va accesa, attaccata, una, diciamo, lui ha detto che il computer fosse una direttiva, un elemento soltanto, un dipolo verticale, ce l'ho sempre qua, gli avevo anche restituito, aveva aggiunto di un anno. Un dipolo rotativo, Tavola? Sì, è un elemento direzionale, è lunga per la 27, ma è troppo umana, Natalia, mi pare che sia... Quanti metri è? A mezz'onda mi sembra che sia. Su intorno ai 6 metri. 5,50, se mezz'onda. Ok, avanti. Sentito qualcuno sotto. Io ho quella di Franco, che mi ha dato Franco Delta 1 con la cubita, che la voglio provare prima di mettere mano a quella che dovrò fare io. Le misure mi servono di quella lì, perché io ho un'antenna VHF lunga, quella a 12 elementi, gira gira, ma la modifica mi roterà cubica. Guarda, c'è un break, Robè. No, questa è una pernacchia, non è un break. Sentito una pernacchia molto lontana. Vabbè, non c'è una pernacchia, ripetete. Devo buscare gli elementi in vetro e resina e basta, per poter fare i radiali, no? Mi serve tutto il progetto di quell'antenna che la voglio costruire, quella cubica. Mi busco quel cavolo di traliccio, se no senza il traliccio non posso fare nulla, dove me la piazzo. E viene bene a metterlo in traliccio, perché lì puoi fare una bella base sopra, è molto, molto comodo. Addirittura ci puoi mettere anche tipo dei freddi per traliccio sopra. Hai visto quel traliccetto che hanno piazzato? Traliccetto sarà 20 metri che hanno piazzato di fronte alla motorizzazione, che c'è quello Polsar da Executive, l'hai visto? Sì. A me ne è piazzato un altro la sera di là, hai visto? Un bel lavoro hanno fatto, che tutti i tiranti a regola d'arte, è proprio uno a fianco all'altro, lo so. Vabbè, ma quindi c'erano te ne così del cavo. Se ti piace una direttiva bisogna che tenga anche il vento, non è così, no? È logico che ci sono i tiranti, se no la servizia della patinina in terra ha un traliccetto così. Ecco. Avanti Bretto. Signori, buonasera, apprezzo da questa parte. Io vi ho passato un canalino e non detto, poi non so se ci sono altre persone, ripresi in canalino. Capri, io ti sento fuori frequenza, come se fossi in FM. Non ho fatto niente, stai da prima, però, la prima parola. Sì, ci sono anch'io. Ciao Gianni, buonasera, Claudio Sparviero. Io addirittura ti sento saturissimo, saturissimo da fare impressione. Sì, 9 più 20 qua, eh. Ti ricordo che io sto trasmettendo da Carbonati, quindi sono di fronte a te. E sì, 9 più 20, quindi a livello di segnale qua a Sassari. Però ti ascolto molto, molto saturo Gianni, eh. Non so cosa stai usando. Moltissimo adesso, sì, perfetto, si è calato leggermente di segnale, forse stavi dando troppa potenza, si è calato leggermente, ma 9.15, la radio sì, adesso va bene. Ciao Gianni, buonasera, ben entrato, e saluto in cordialità, c'è anche Falchetto che rimetto il microfono, avanti Falchetto. Capo, salutoni Gianni, ben sentito, ben entrato, vai. Sì, sì, in effetti confermo quello che ha detto sia Natalino che Claudio, quindi molto, molto saturo. Vabbè, è tutto qua. Riprendi Gianni e fai girare per... c'è anche Roberto Quadrato, eh? Anche a te Gianni, no Gianni, se non ci sono problemi, sempre un piacere, ecco, modulare con te. No vabbè, ripeto quello che hai detto Claudio, anche tu da parte mia stavi saturando, sembrava di NFM, però era problema di saturazione, probabilmente qualche cambio che non stava andando al 100%. Comunque adesso Radio 5 ce n'è 9 più 10 da questa parte, ti rilancio a Natalino, avanti Natalino. Adesso già stai andando bene Gianni, ma poco fa il troppo saturo non si capiva nulla di quello che dicevi. Ok, andan bene Nera, mi ha fatto piacere che sei entrato. Ok, ben entrato la Gianni, là. Riprendi tu. Piacere che sia entrato a fare due chiacchiere assieme a noi. Ok. Per te, microfono, Falchetto. Ehi, positivo. Positivo a 100. Va bene, va bene. Ehi, fa sempre piacere, giustamente, di ascoltare le persone con una certa educazione, come mi auguro per voi. Si sente abbastanza persone educate, fa piacere sempre ascoltarvi. E niente, rilascio il mic a Roberto, avanti Roberto. Ehi, Achele, sta andando al mondo anche me Falchetto. Capri se l'ha ripreso il morbo, purtroppo una malattia voluta che viene male e smette. Dai, sono contento perché anche lui c'è stato un periodo critico, dai. Forse non so se è stato uno di quelli che l'ha convinto a riprendere l'attività, comunque sono contento, dai. Eravamo quattro gatti, quelli buoni se ne stavano anche andando, per cui meglio così che sei rientrato. Riprendi di nuovo Capri e fai girare. Culo. Yeah, I'm sorry. niente, novità ci sono, sono da un po' che non ti sento, Capri. La guida funziona, copiata da solo, perché potremmo farlo, le ho fatto un giorno, come studiata dentro, sono comprata anche questo, però l'ho comprata perché sono anche in via di estinzione, dicono, ma non più, non ho profittato. Thank you. il segnale tuo da parte mia non è che ci ha cambiato più di tanto, diciamo non ho visto grossissime differenze rispetto a come eri prima, non so gli altri quelli che ti sentivano più basso, perché arrivavi così in queste condizioni 9 circa 9,10, con quell'affare che ci aveva attaccato prima eri sui 9,20 più o meno, per cui grossi miglioramenti non ne ho visto, almeno da parte mia, non so se poi quelli che sono più lontani, sicuramente sì, come forse perché siamo troppo vicini. Ma non per i segnali, grosso modo, sono quelli che noi siamo. Con tutti i rapporti anche ho parlato con perché i paramobili mi hanno detto che i rapporti e anche gli altri che fanno, tutto poi dove siamo, diciamo, attaccati e quindi non possiamo, diciamo, prendere, non posso arrivare, se ci arrivo così. Segnale reale di quell'antenna. Se riferisci a me, Natali? No, a Gianni. mi riferisco a Gianni, perché anche tu se la alzi, non quell'antenna, la metti come deve essere messa, allora spaventa veramente la madonna tua, caro Palchetto. E così dico a Gianni, quella di Gianni non stai radiando l'antenna, capito? Perché è troppo bassa, c'è un palo troppo corto, va. Quando lui aggiunge quel palo, le senti la tracca, va lì. Cappa de Rosa, ci credo, tu l'hai vista la mia com'è, un po' corcata, insomma, un po' messa, diciamo, all'avventura. Se io dovessi alzare l'antenna, quella specie antenna, nel senso specie buona perché arriva abbastanza bene, metterla proprio a piombo come se deve essere messa, e sollevarla non dico molto, ma almeno un metro, non pretendo molto, un altro metro dal piano, diciamo, del terrazzo, dovrebbe andare meglio, va? Se ti ricordi era proprio dovuta a una posizione. quel discorso lì. Ho parlato di antenne, perché secondo me con l'antenna rispetto alla Grand Prix non hanno fatto grosse differenze, più o meno lo stesso segnale, forse arrivava e forse sta arrivando. Non ho visto il grande cambiamento che magari può aver notato Falchetto, quelli che arrivavano dove arrivavi più debole. Qua 9:10 arrivavi e 9:10 stai arrivando. Chiediamo conferma a Luca, ciao, buonasera Luca, che Luca è un po' più lontano, ci vediamo se lui ti dice che ha migliorato qualcosa. Ma sono ore che sto tentando di entrare, purtroppo lì siete tutti vicini, è un casotto, no? A Claudio, pronto, va, saluta Claudio, prova. Cosa? Saluta, no? Come senti per te? Salutami la tua Sonia Luca. Metti la viva voce, salutala. Un bacione grande, tra qualche giorno ci risentiremo sicuramente al BC. Mi hanno confermato per il 26, mi danno la linea, è già tutto pronto. Ok, sì, facciamo girare, io sto parlando un po' l'orientamento, Falchetto riprendi per Luca, vai. Esatto, vai, saluto, mi hai fatto Luca, riprendi e fai girare. Però adesso al computer non... Niente, posso per far salutare a Claudio. Beh, salutalo. Ciao Sonia, un bacione grande, un abbraccio, ancora qualche giorno poi ci risentiamo, ci vediamo al PC. Già risposto. Quando viene da noi, ti dà? Sono piano. Claudio? Già risposto, vai qua, rispondi. Sonia, tra qualche giorno, un bacio grande, tra qualche giorno vedrai che sono nuovamente attivo al PC, perché ho cambiato casa e quindi ho dovuto staccare la linea, ma me la ridanno tra qualche giorno, quindi ci sentiamo sicuramente al PC. Un abbraccio grande, un bacio grande, Sonia. Grazie, grazie, un bacio, grazie, spero di venire a noi. Tra un paio di giorni trovo l'attacco alla linea. Buona riattacca, va buona. Ciao, poi il prossimo. Buono polizia, ora tra quanto salutare, io rompo la spalotta. Vai la salire di qui. Riprendo io. No problem. Ciao Luca, allora ben entrato e ben uscito, se devi uscire, non c'è problema. No, cosa volevo dire? Come regola vorrebbe 2,75 qua, perché è un quarto d'onda, almeno sei sicuro che è l'aria, e con 3 metri di palo sopra il tetto non c'è bisogno manco di tiranti, caro Gianni, ma che un cavolo li muggi tu, 3 metri di isubarurus, né tu né il vento. Non ce n'è bisogno di tirarti per 3 metri, Gianni, capito? Oh, riprendo io, scusate un attimo. Aspettare la salita, anche stanco, domani c'ho una giornata impegnativa, mattina e sera. Dai, vi saluto tutti, sempre un piacere ascoltarvi. Ciao Falchetto, Natalino, Claudio, Luca e Gianni. Ci risentiamo in occasione migliore. Ciao ciao, corretti da parte mia, aspetto i saluti finali e chiudo. Ciao ciao di nuovo. Guarda, riprendo io per i saluti a Roberto. Ciao Roberto, già ci vediamo domani noi. Alle prossime, mi prendi Parchetto e farai girare per Claudio e poi Gianni, capa. Positivo, e buon 144, vabbè, tutte alle migliori. Riprendi Claudio. Dico SL. Ciao Robè. Piacere averti ascoltato di nuovo. Salutoni, cordialità, buona giornata per domani, buon tutto. Ci riascoltiamo alle prossime. A te il mic, Gianni Capri. Sì, saluto Roberto, diciamo, un minuto per domani, 144, e c'è più piacere modulare con te, quando senti, mi farebbe piacere conversare, perché so che sei un grande appassionato, come sono da appassionato io, anzi, mi non scusa che non ho salutato ancora, Luca, buonasera, da frequenti, super salutare. Tutto che era proprio in fase di abbandono, ne ho chiamato molto caro la settimana scorsa, ho fatto buttare via tutto, tra l'altro poi non ti dico, siamo andati all'autoparco, che adesso non avevo voglia il giorno di fare polemiche, ma poi mi spiegherà questo cacchio di direttore che c'è lì, gli ufficialisti in testa pelata. C'erano quattro monitor di quelli vecchi, sai, di quelli che si usavano un tempo, e il trasportatore è un mio amico, ha detto vabbè carica tutto, metti anche questi, già vedo io presso a te. Non siamo arrivati lì, oh, non gli volevano scaricare questi monitor, perché dice che lui non era autorizzato a scaricare questi monitor perché non ci aveva il permesso, mi riportava lei con la sua macchina. Ho detto, ma secondo lei questa roba ci sta nella mia macchina? Allora vai giù una vasca a bagno, caro, ti rimetto. Ne ho approfittato e li ho caricati sul suo motocarro. Non li voleva far scaricare, buttare via. È capitato lì, è arrivato un collega proprio di dove lavoro io. E mi ha detto, tu qua, tu scusi, lui era in divisa, io no, perché non stavo lavorando. E niente, lì insomma gli ha detto, guarda che ho... il mio collega così e così dice, no, non poteva dire prima, ma cioè io non riesco a comprendere perché si deve sempre arrivare a chiedere, a far sapere le cose personali, chi sei, chi non sei, cioè mi ha detto proprio no, lui non li può scaricare, se li porti via. E poi mi ha detto, se mi riportava lei con la sua macchina io l'avrei fatti scaricare, ma che senso ha secondo te portarli lui o portarli io? Mario Bucco, un tesario, lasciamo perdere. Esatto, Mario lo chiamavano, sì Mario lo chiamavano, ma io non conoscevo neanche sinceramente. Guarda, non mi è andata bene, perché se non fosse arrivato quel mio collega, che tra l'altro è lì a Predagneta che fa le letture, eccetera, e lo conosce a lui, non me li avrebbe fatto scaricare, me li voleva far portare via. Me lo prego le scatole dove me le mettevo, avevo già tutto pulito, tutto fatto, già mettendo i monitor vecchi funzionanti, ma sono monitor che non si usano più, e li ho messi alla rottamazione, per dirti. Comunque, quando le ciance c'è un sacco di roba, tubi, tubicini, eccetera, eccetera, che ti può interessare, intanto io qua non devo mettere altro. Quello che ho lo sto facendo piano piano, quindi non mi serve. Ci vediamo un giorno. Abbasci i geni e ti gargheggi tutto, dice, c'è anche del cavo, quindi se te ne serve già, con i PL testati, ce ne sanno buoni una ventina di metri, di quello buono, non di chiuso vecchio, di quello buono. Comunque quando ci vediamo poi mi dite quello che ti serve e ti si butti tutto. Microfono per Antonio Nostro Falchetto, avanti. Fabio, guarda, fa molto piacere di ascoltare i discorsi perché sono interessanti, la verità si dica. Ero parecchio tempo che non ascoltavo discorsi del genere. Fa molto piacere, Caparoccia. Va bene. Io non so neanche che ora si è fatta perché domani dovrei anche fare delle commissioni. La vista mi sta anche per mancare, le 21:19, se non vado errato, così. Io ho le 21:44, io ho i tre orologi, che Natalino sa come funziona, praticamente in orari diversi, però quello attualmente reale io ho le 21:44, quindi praticamente sono le 10:15, così è anche da voi. Mi dovete capire, io ho il cellulare con numeri piccolini, ho scambiato il 4 per cioè l'1, cioè il 4 per l'1, non problem, K di Rossi. Ne approfitto per salutarvi, dai, io ho salutato tutta la ruota, senza escludere nessuno, e ce la riascoltiamo tutte le migliori, se coincide verrò domani mattina per quella bibita famosa, dai, se coincide vengo e ce la beviamo, dai. Ok, dai, io vi saluto a tutti, passate una buona notte e tutte le migliori. E Falchetto chiude le trasmissioni momentanee. Ciao a tutti. Ciao, Falchetto. Vabbè, salutoni, io ti ho detto domani mattina ho un appuntamento lì con alcune persone, sicuramente conoscerai, e quindi mi fa piacere se ci vediamo. E poi quando vuoi, anche con Natalino ti metti d'accordo, sali, mi fa piacere. Io la sera sono quasi sempre a casa, a meno che non abbia dei turni di lavoro pomeridiani, ma di solito sto facendo quasi sempre il notturno. Adesso oggi e domani sono a riposo, quindi non c'è problema. E avanti Gianni Capri 2 per Falchetto. Thank you. Tauri acceso e stavamo prendendo il discorso delle antenne e delle onde terapie. Mi aveva fatto una modifica e praticamente aveva toccato questo trimerino in mezzo tra il PLL e lo stadio delle valvole. C'era questo trimerino bianco piccolo piccolo, infatti lui si mise la lente di ingrandimento proprio per lavorarci bene col cacciavite induttivo, e me l'avevo appena appena aumentato e già aveva migliorato moltissimo, tanto è vero che con la tonalità che gli dava il panel più 2 da tavolo veniva fuori questa modulazione bellissima, molto, non molto larga, un po' stretta, però con questi medio alti molto molto gradevoli, e quello me lo ricordo. Quindi vedi un po', io adesso posso anche sentire Carlo se si ricorda, ma sono passati tanti tanti di quegli anni che molto probabilmente non si ricorda neanche lui. Io qualcosa vagamente ricordo che lui toccò questo trimerino in mezzo lì tra lo stadio finale e l'ultima chiusura proprio del circuito del PLL, questo me lo ricordo perfettamente. Poi non so se si ricorda qualcosa a Natalino di quelle radio, perché era simile Natalia al Tenco, se ti ricordi, al Tenco Valvolare 46T, era uno dei grandi apparati che aveva fatto la Tenco, era 46 canali, tutti commutabili con il suo potenziometro. Ma l'unico che ci può mettere le mani lì, però sai chi è? Adriano. Io le mani lì non ce le metto. E vedi Gianni, magari tramite Natalino, c'è molto bravo Sassari Adriano che fa queste cose. Lui sa dove sicuramente mettere le mani. Io mi ricordo vagamente che c'era un qualcosa del genere dove allora Carlo fece questa modifica, oddio, neanche modifica, proprio un'apertura leggera per dare un po' più proprio di tonalità microfonica, ma altre cose su quelle radio lì non si possono fare, non si possono fare perché hai ben visto dentro come sono fatti, hanno tutto questo baravan, perlomeno il 35 era così, il 25 era addirittura molto più vuoto, ma il 35 che c'ha il trasformatore interno della 220, ha tutto quel barragione che c'è dello stadio fino alla valvola, c'ha 5 valvole, e quindi già il posto è quello, poi tutte le schede e tutti i quarti, perché io ce l'avevo quarzato, non so se il tuo è quarzato, quindi non è che ci sia molto a lavorare lì, Gianni. Si rovina, Poi dei baracchini, non te ne dico, i baracchini li avevo tutti completamente imballati e dati a un amatore praticamente che c'era sempre lì a Milano assieme a un, non voglio esagerare, un 120-130 microfoni tra palmari, da base, eccetera, eccetera. Me ne sono tenuto solo due, di cui un tranne più tre, bellissimo, quello dell'ultimo che avevano fatto, LSBE. Basta. Mentre gli altri li ho dati tutti. E dei baracchini mi sono tenuto perché è bellissimo, a parte vabbè il superstacolo è sempre dentro l'armadio, ma non mi interessa, ma proprio baracchino baracchino, quindi a livello di baracchino, che è grande quanto il superstar, forse anche più grande, mi sono tenuto il Sears, SSB, che è un 23 canali più quello alfa, più 2 alfa, 22 alfa e 11 alfa, con le bande laterali, ma è un bestione del radio che pesa un treno, ed è una radio praticamente americana, ed è il Sears SSB50. Quello me lo sono tenuto, ma proprio per l'estetica che ha. Il resto avevo dato tutto, Gianni. Infatti, la vedete, io già ne ho una salina già, quindi so che qualche cosa ce l'ho, però bisogna manutenzionarmi, come detto tu, o lo riaccendi o li tieni, se no, hai capito, tutto può succedere. Ripeti la salina. Ti sto, anche se te si rimane a Radio Mattoriale, stiamo facendo discorsi da Radio Mattoriale. Poi c'ho l'S1DX, quindi sono tutte cose belline da avere, per carità, ma se tu accendi tutta questa cosa, inizi a impegnare alimentatori, inizi a impegnare posti, inizi a impegnare, alla fine ti si riempie la stanza, bella quanto possa essere, di cose che per me sono inutili, quindi preferisco tenerle dentro l'armadio e non mi creano neanche problemi di spazio, problemi di alimentazione. Io ho due alimentatori, quindi alimento 12, 13, 14, 14 radio, ma 14 radio consistenti, alimento con due alimentatori della Kenwood da 50 ampere l'uno, quindi sto lavorando a 100 ampere, quindi sai, 100 ampere per tutte queste radio sono più che sufficienti, ma se cominci a distribuire 2 ampere a quello ricezione, 2 ampere a quell'altro ricezione, 2 ampere a quell'altro ricezione, alla fine non trovo anche nulla per trasmettere, già capito perché non faccio anche questo tipo di discorso. Vai Natalì. Ecco, a me mi serve un ricevitore, già lo accendo io qua. Il ricevitore che c'è io, quello è solo cosa, quello ripeto solo per bellezza, decametrico, non hai le funzioni, vedi quello che c'ha Gianni, l'altro che c'ho io, il 7000, quelli sono già ricevitori che vanno per ciò che serve oggi attualmente, ma quelli decametrici oramai cosa fai? Non ce l'hai tu, il ricevitore Natalia Neravini, basta che ti usi come stai usando adesso il presidente, ti accendi il 4-4 e colì che stai ricevendo il mondo a tasso zero, cosa devi? Sono sprecate anche quelle, a meno che uno non abbia veramente un ricevitore d'alto livello, parliamo già del 9005, del 9008, di quei ricevitori grandi, professionali, che aveva fatto la Kenwood, che ha rifatto la ICOM, allora stiamo già parlando di professionalità, ma se tu possa ricevere con un ricevitore di 10 decametri, come viene a risa Natali, c'è cose molto più interessanti. Vero Gianni, comunque ricordati, già ti ho detto che io qualcosa da scambiare con te ce l'ho, quindi quando vuoi fai un fischio, io non so dove sei, ma mi permetto di magari farci un salto con Natalino, ho delle cose interessanti, tu che sei un amatore, io veramente non uso proprio, quindi non mi interessa neanche averle, a prendere posto dentro le armadie. Bisogna anche averla. Io ce l'ho una di quella roba che ti ho fatto pagare. capito. Non lo so, Gianna, ma di Giacchera è, infatti, l'ho sincronizzato da 117, c'era il supermattino, e l'ho parlato, no, ma che cosa si sentiva? Capito la torre, però no, non la sento, e riprendi Claudio. Dalla torre di Fertilia trasmette assieme a quella di Olbia, quindi l'aeroporto di Alghero e l'aeroporto di Olbia trasmettono tutte e due a 130-250. Le due torri di controllo trasmettono a 130-250. Io ti consiglio di mettere un'antenna larga banda tipo Discone, che parte da 50 kHz di quelle a 1300, quelle insomma larga banda, di quelle lì. Ricevi bene, soprattutto da lì che c'hai, sei aperto per Alghero, ricevi molto bene. Io ho la misima anni e anni fa in Discone, che mi pare che sia ancora su in Massada, ho recuperato anche quella. Poi per quanto riguarda le filari Natali, non c'è bisogno di farle, io ti ho detto ne ho un mare in Massada, le ho tutte messe da parte, e c'è anche un'altra G5RV, quindi se sei disponibile la prendi a Gianni, gliela sistemi in maniera insomma che possa almeno ricevere, e quella è quella piccola, non c'ha gli 80 metri, però c'hai 10, 20, 40 più tutte le varche, 15, 21, i 28 te li fa perfettamente, anche in, te li fa tutti ricezione e trasmissione, perciò non ci sono problemi. E poi ho visto che c'è anche una come si chiama? Un'antenna VHF tipo Grand Plane, molto bella, nuova, pare che non l'ho manco piazzata io quella, pure l'ho presa, non è che piazzata, che c'ha lo stilo da alto, mi pare che sia proprio 2,75 lo stilo centrale, e poi c'ha i tre radiali, tutto in alluminio, è nata lì, e c'ha i tre radiali che si filettano tipo la X 500, vai, per farti capire. Non l'avevo mai usata neanche quella, l'ho visto altre antenne, ho detto avvicinati una mattina o una sera quando vuoi, ti faccio vedere quello che c'è, te lo porti via, magari è roba che puoi utilizzare tu o dare qualcosa anche a Gianni, tanto roba che io non uso nel modo più assoluto, era piena di questa roba avanzata, veramente una barca di cose che mi sono dimenticato anche che c'erano, figurati tu. Quindi Gianni, se hai bisogno di qualche antenna filare, di qualcosa per ricevere, per ascoltare, non ti creare nessun problema, io ne ho, guarda, di quella roba che non l'ho buttata perché può sempre servire a qualcuno, però non è roba che uso io, perché il mio parco antenne l'ho completamente tutto rifatto a nuovo. Cercare di fare una configurazione generale per quanto riguarda lo stadio finale, insomma, cerca di tirarmi i piedi già. Io non ho capito di quale stai parlando, ma non ho mai avuto l'occasione di averla. Ma è simile alla linea Collins, di quelle che si usavano una volta sui mezzi, appunto, aerei, eccetera. Perciò sono belle cose anche quelle, ma se riesci a metterla in uso, caspita, ben venga. Non c'è problema. Per l'antenna ti ho detto, no, non ti crea nessun problema. Io ne ho e sono lì. Sono lì in mansarda dentro una scarpa, sono delle filari, sono delle antenne che possono servire a qualcuno per fare anche attività di SWL, non ho problemi. Sono perfettamente in uso e le do tranquillamente a persone appunto che ne hanno necessità e che li usano in maniera buona. Ok, signori. Io da questo momento mi congedo, sono già le 10:20, vado a sistemarmi un po' e poi me ne vado a nanna, perché domani ho un sacco di cose da fare, me lo tenete anche presto. Quindi un abbraccio grande a Gianni, a te Natalino, eventuali SWL all'ascolto, e un saluto circolare a tutti. Buonanotte, grazie del grandioso QSO. Abbiamo parlato un po' di tutto e spero che ci risentiamo con calma e tranquillità a fare due chiacchiere quando c'è la possibilità, quando non c'è, pazienza. Ciao a tutti, buonanotte, il microfono per te Natalino, fatti vedere, fatti sentire e non c'è problema, se ti serve qualcosa vieni e te la porti via. Ciao a tutti, buonanotte, ascolto il finale e poi chiudo, vai Natà. Ciao Cla, me ne ha sentito, grazie di essere entrato, grazie per questo, buono a QRT, a risentirci alle prossime, anche in migliori occasioni. Avanti Gianni, per i saluti a Claudio K. Grazie Claudio per la conversazione, è sempre un piacere conversare di queste cose, tu ce lo sai che ce la metto tutta io e comunque quando lo vediamo sempre che con la salita noi volentieri facciamo queste chiacchierate qui. Ok, buonanotte, buon tutto per domani e a presto di sentirci. E di nuovo la salita a te e il microfono. Ecco, Gianni, oi, andrà bene. Comunque, per quella domanda che mi avevi fatto, bastava quel titolo che ho io? Persona, così mi spieghi un po' la situazione. perché già lì non potevi parlare, anzi hai fatto male anche a telefonare, ma già ne parleremo di persona. Quante le questioni come un commercialista del mondo. posto buono, fanno il concorso. Mi sembra anche logico. Fabio, lei capisco e niente, speriamo che invece sto guardo sempre augurando che si sblocchi la crisi, che si sblocchi la crisi. Non io vediamo per il male, anche lì posso fare certe cose perché ripeto io voglio un contributo alla una regione per un anno e io questa roba posso intercedere alla benedizione anche in qualche linea della regione, dei tuoi visti, hai capito, con domani la roba si può migliorare, c'è un sacco speciale, però diciamo, e anche la gente nata lì, che si riprendano soprattutto le imprese, che si alzino la terra, che diano lavoro anche ai manovali e a queste persone che sono disoccupate, che ne hanno veramente tanto e tanto bisogno. Io credo bene, e senza lavoro uno si sente anche frustrato, e io lo so bene com'è la situazione. Se hanno chiuso anche la cementeria, ha chiuso del tutto. E senti che c'è un capannone della cementi che prende il cemento in piazza la cementeria. Se mi sa che mi so bene, è arrivato da Sanaria io, un capannone. A chi non bisognava mettere in Corsica? E lì a colpa, tanto lì hanno fatto tutto questo perché hanno iniziato già a importare il cemento da fare i conti perché era freddo, quello che hanno fatto, hanno rovinato un sacco di posti di lavoro, perché il cemento c'era il tempio, noi quindi avevamo anche la materia prima qui, e, diciamo, al mio paese c'era la materia prima, ecco perché è piantata lì la cimiteria, c'erano le case, c'era la materia prima proprio per produrre il cemento, poi portavano altri camion, non so che cosa era, però si lavorava qui, ci ho lavorato anche, io con un libro dell'estesa in cimiteria, andata lì, ho visto come funzionavano i corpi, ho visto come funzionava tutto e si produceva qui, si staccava qui e caricavano qui. E purtroppo quella lì era una struttura nata nei primi anni 60 che era con Apollo, non so, a Furono, che c'era nel suo territorio, ma con Apollo a Sassari, con Apollo a Ossi, Carcene, Ruina, Colombiano, Lucone, e tutti quanti questi paesi di Mitofi, Natali, che allora, diciamo, la disoccupazione era stata un pochettino, diciamo, soppressa, perché niente, non ce n'era allora, bisogna essere proprio disoccupato all'epoca, diciamo, vuol dire che era proprio mandrone, perché oltre alla cimiteria dentro si lavoravano le imprese interne per la manutenzione dello stabilimento e quindi il lavoro c'era, adesso ce n'era una che ha portato storia e quella ha chiuso più di era nei anni 60 con la cimiteria. Cemento bianco, cioè facevano una roba adesso un rubere, non so se ci sarà ancora, se l'hanno completamente mantellata, però guarda questa roba nata lì, qui in paese, diciamo, tutto il paese si è fatto casa da lì e si è cresciuto la famiglia, ma non lo so, no? Questa roba rimarrà, questa roba fatiscente che si graverà con l'andare del tempo. Infatti, e senza contare tutte le persone disoccupate che ci saranno. Gesù, qui c'è un mio povera gente che hanno famiglia, ma io non lo so, il governo la pensa di fare. Sì, perché quando c'era Natali, lì c'era anche la metalmeccanica, ci lavorava la Rubato, lì ci lavoravano altre imprese esterne che facevano tutta la manutenzione, perché proprio se chi era nella cimenteria faceva i lavori, sono attenti a quello che riguardava il cemento, poi diciamo che c'era la metalmeccanica per fare gli interventi necessari per mantenere l'impianto, hai capito? valide sono a terra adesso? A me la salia che mi sembra, da quando hanno aperto queste frontiere qui siamo invasi da lì, di questa gente, non sono razzista per carità, ho sempre, diciamo, sollevato il debole io, ho sempre sollevato il debole, ho fatto, capito, non sono razzista perché però siamo invasi da lì, da queste persone, e quando ne arrivano vengono subito ripositati, infatti, diciamo, tutti i riguardi possibili, siamo e la gente troppa, hai capito, a me, anche queste persone, che una giornata di lavoro si fanno fare i 50 euro, i 50 euro, sono di quello che va per 20, ecco come, diciamo, la roba, poi va a rotoli, bruciano i prezzi e niente, e quindi, molta gente che qualche giorno dovrà fare come manodopera prende questi. Infatti, ti dico una cosa, il governo se vuole aiutare questa gente, che aiuti al paese loro, non a portarceli qui a romperci le scatole a noi. Qui non ne togliamo più piedi, da padroni diventano virati. Che era per il nostro prima di quarta, non mi dispiace, sono liberati, io bene o male, sto lavorando, però lì, era una stata che fa, guarda se io qui, 4.000 euro mi pago via. Perché devo dare quello dell'anno scorso più gli acconti per il prossimo anno, l'interrata, hai capito, sto lavorando, io avrei preferito lavorare come dipendente da lì con una ditta, sono lavorato lì, queste tante però sono stagioni, capito, non sai perché, non sanno più lavorare neanche qui, insomma, gratuito, anche questo mio, sì, il figlio di mia moglie che c'è un sacco di pullman andata lì, non sai come sta lavorando, con questi che vanno a fare questi viaggi per la rappresentazione dei prodotti, di queste cose, un po' lavora così, però non so a quanto lavora andata lì, e diciamo se, capito, se guadagna come dovrebbe guadagnare. Infatti siamo tutti molto mali, caro Gianni, siamo messi male, siamo. E quello è il discorso. E io a lì penso che la gente, una volta con Babbo, abbiamo avuto, diciamo, un argomento da trattare, a tavola e Babbo mi ha detto che c'erano questi, mio papà ha lavorato 40 anni alle ferrovie dello Stato, però Babbo ha lavorato anche quando, alle ferrovie dello Stato, quando lo stipendio delle ferrovie era poco. Però diciamo già c'ha, mi fa che ha cambiato e poi guadagnavano bene perché nessuno si voleva andare, però mi ha detto papà la gente ritornerà alla campagna, sempre questo me lo dice. C'hai ragione, perché ci siamo rovinati con le mani nostre, questa sì, mi ha tolto la gente dalla campagna, quando poi mi ha chiuso e sta chiudendo tutto quanto, infatti, ma niente cosa fate secondo te? Adesso viene anche un po' male tornare alla campagna a tutti, che sono venduti tutti le terre, le bestiame, sono venduto per andare a lavorare lì. Ma lo sai, certo, io mi ricordo all'emiciclo quando c'era il boom di questa silca, che venivano tutti i pullman all'emiciclo pieni di gente che andava a lavorare lì. E non lo so, c'è una tagliere di biciclo conosciuto anche io nel pompo, perché ho studiato a Sassari e adesso anche lì hanno fatto la cassata, hanno fatto la cassata e prima c'era quello che si apriva un bar lì, una cosa, c'erano quel mamma di fuma e un po' diciamo si riusciva a sbarcare il lunario, c'era anche questo della bancarella, hanno rovinato anche quello, li hanno levato, ma per lì, hai capito, lo vediamo messo in un coso che la giorno che è accompagnato a Francesca a prendere il pullman, sembra una cosa di fame, non lo voglio neanche dire, io ho capito, l'emiciclo era il punto ideale per farsi di pullman, hai capito, c'era sul bar con i soldi della mafia cinese, perché poi questa gente deve ritornare i soldi a questi qua, perché più che così non è, non possono avere tutti questi soldi questa gente. No, non ti credo più che se qualche cosa l'ho sempre detta io quando parlo con mio figlio, che trattiamo, se qualche cosa una tali postura che fa andare avanti questo mercato, e perché non sa vendere, se no, hai capito, no, non è così questo il campo di affidamento, però se ho comprato certi locali, guarda, che non ti dico, andare, quindi senz'altro, dietro questa cosa c'è una grossa organizzazione che noi non sappiamo cosa, sì, cosa è, però qualche cosa di grosso c'è che direi sì, sì, hai capito? Niente, però lì è tutta roba che ha fatto chiudere il piccolo negozietto e tutte quelle cose, perché noi ci andiamo a certi, come si chiama, anche la roba alimentare, certi supermercati e tutta roba cinese. Sì, infatti, poi adesso tutti questi grandi capannoni che stanno piazzando a Predanida verrà richiuso tutti uno dopo l'altro, perché la voce si spartisce e poi non ce n'è per nessuno, e fanno gli ultimi a mettere gli insulti sotto di tempi, Gianni. E non so, Natale, ma io questa roba l'ho studiata da tempo, io non so niente, perché ho avuto sempre il massimo rispetto per la persona, diciamo, internazionale e tutte queste cose, anzi, ero sempre fiero che venivano a visitare l'Italia, come molte volte si andava quando andavo a Roma, quando ero nell'arma, e venivo i giapponesi, tutte quelle cose, ma c'è una cosa, anche quando ero venita, era pieno e tutta la gente veniva a vedere le nostre città, e io, diciamo, c'è gente molte volte che ripete come bene bene, però io non sono stato in artista da te, però adesso è pieno, ed è pieno di senegalesi, ed è pieno di marocchini, ed è pieno di questi polacchi e di cosa, poi altri polacchi, bene o male, altri qualche volta, con di salvia anche se deve comprare un arnese, se lo danno, diciamo, no, 4 o 5 volte meno di quello che dovrebbe portare, è roba che ho avuto, diciamo, le attrezzature non indifferenti, di buona qualità anche. E cappa, e dove ti dica già, non si sa più dove sbattere la testa. Vabbè là, io se ho fatto tardi me ne vado tutto a letto, Gianni. Ci sentiamo domani, al limite, se entri. E al limite, perché no, già ci troviamo di persona per poter fare due chiacchiere a quattro occhi. Benissimo, Natale, ti saluto, ti saluto anche la mia 50, che sarebbe in questo momento, che anche noi andiamo a letto, perché domani devo chiedere a Claudio, anche presto, perché siamo la donna antibiotico, che era con questo mal di gola forte e chiuso di respirazione, capito? E quindi abbiamo l'orario anche da rispettare, perché deve seguire la sua frase, la cura e niente, Natalia. Io sono in braccio quando mi sento, mi sono dimenticato anche della roba che succede a domenica, cioè anche mi sono anche da sopra. Lo prendo non pure poi più là, è un microfono, buttiamo buono, glielo diamo, capito? Ma il ventilatore mi ha fatto molto virale, mi è molto dispiaciuto. Bene, Natalia, ti saluto, ti auguro buonanotte e saluto anche tutti gli eventuali ascoltatori che sono tutti in cinque, molte volte ascoltano, anche io faccio così qualche volta e non hanno voglia di entrare. Bene, capri due, mi saluta, buon punto Natale per domani, ciao ciao. Ciao ciao Gianni, salutoni a te, famiglia, alle prossime. Grazie Natale, buonanotte. Adesso vediamo. E quella è bella la vera, io ho visto. Non credo che siamo andati insieme. È vero, una volta sì. Volevamo vedere Mores, volevamo vedere Mores e siamo andati. E ci sono andati anche in moto. Anche in moto sei andata. Dove ti sono? Non lo so. Saranno una trentina. passava. Era bello usare la macchina. In realtà io non le avevo viste, le macchine, le Spider, mi pare. Le Porsche. È una bella macchina. Magari stavano gareggiando, guarda. Erano tutte quante le... aspetta, come si chiamano? Le Ferrari, gareggiando. Non ho visto Natalia. A me, lo sai che a me lì non piace molto. Lì manca a me. Perché c'è sterrato? Perché? Perché non c'è competizione, ma che tu gli rossetto fai, ti scappi di le cose. Non mi piace assai. Lo sterrato è l'unica, proprio non me li più allora. Non mi fa. Invece a me piace la competizione in pista, piace molto. Lo sterrato è bello, Se lo stai seguendo gli è bello. No, non mi piace molto già. Perché fare che ci ieri, ma no. Invece no, la competizione in vita è diversa, cioè che ti sfidi, fai il sorpasso, c'è la macchina migliore, il motore che fa di più, cioè sono altre cose. Poi tu, io ti saluto, mi sta venendo la biocco, ci sentiamo, state saluti da Eurospin. Eurospin. Ciao, dai, buonanotte, già, dai, ce la risentiamo. Ciao, ciao.